l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia, ben ritrovati come ogni settimana con il nostro appuntamento dedicato all'Europa, l'Europa delle possibilità, l'Europa delle opportunità, l'Europa delle storie. Euronetplus.eu è il portale del network al quale apparteniamo, un percorso comune, tante radio diverse per parlare della stessa Europa. Radio24.it invece il nostro sito dove potete trovare tutti i contributi relativi ad Euronet e all'Europa in generale, oltre ai nostri contributi extra, e da dove potete anche scaricare il podcast. Ancora le coordinate virtuali invece: chiocciola Federico Taddia oppure chiocciola Euronet Plus R24, Twitter e Facebook. Lì trovate tutti i link relativi agli argomenti che andremo a toccare. Ogni settimana un viaggio, e oggi si viaggia per davvero e lo si fa con l'Erasmus. Ma che ore sono? Soprattutto dove sono? Ma certo. Certo, sono in Erasmus. Sono in Portogallo. Devo andare. Dove? A studiare un modo per spiegarvi che cosa significa far parte di un'unione. Far parte di qualcosa che ti cambia la vita, che è vita. Fatemi scrivere, fatemi cercare. Fatemi pensare. Fatemi scrivere, fatemi cercare, fatemi pensare. Sono tre messaggi racchiusi in questo video di 3 minuti realizzato da Francesca Giglione, che insieme a Luigi Lupo sono i vincitori del concorso inviati ANSA per un giorno. La generazione Erasmus racconta l'Europa. Questo appunto era un estratto del lavoro di Francesca. Con noi invece c'è Luigi Lupo, che è studente di scienza della comunicazione all'Università di Bari, se non erro. Ciao Luigi, buon sabato. Ciao a te, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, tu hai fatto l'Erasmus dove? A Oviedo, nelle Asturie, a nord della Spagna. Ok, adesso andremo anche ad ascoltare un passaggio del tuo video. Qual è stato l'approccio che hai scelto per narrare in 3 minuti un'esperienza che credo in parte ti abbia anche cambiato la vita, o quasi? Certo, sicuramente è un'esperienza che cambia la vita. L'approccio che ho scelto è stato quello, essendo anche uno speaker radiofonico, di simulare una diretta. Infatti nel video si vede benissimo come sia in uno studio radiofonico, nella radio dove lavoro della mia città, e raccontare così, in questo modo, sempre nei 3 minuti classici imposti appunto dal concorso dell'ANSA, quali sono state le mie sensazioni ed emozioni dal punto di vista personale, ma come l'Erasmus abbia potuto cambiare la mia visione dell'Unione Europea. Dai, andiamo ad ascoltare insieme l'incipit del tuo video e poi raccontiamo questa esperienza. Dove ti ha portato? Buongiorno cari ascoltatori, siamo qui in diretta per questo nuovo appuntamento, un appuntamento speciale perché vi parleremo di una esperienza meravigliosa e unica, quella dell'Erasmus. Meraviglioso è l'unico aggettivo che vorrei utilizzare per parlare di ciò che è stata la mia esperienza in Erasmus a Oviedo, città nel nord della Spagna, capoluogo delle Asturie. L'Erasmus, a mio parere, è un'esperienza che unisce i popoli dell'Europa. Perché spesso si sente parlare di Unione Europea, di Comunità Europea, soltanto legata a questioni finanziarie, alla BCE, al Fondo Monetario, insomma, pratica burocratica. Invece l'unione vera e propria dei popoli a livello umano, sentimentale, avviene già dall'età, dal periodo dell'Erasmus. L'unione è un'esperienza meravigliosa, questa è la parola che hai scelto. La meraviglia ti porta al concetto di ricerca, di scoperta, di incontro, cose che hai vissuto giorno per giorno in questo tuo Erasmus, Luigi. Sì, certo, la meraviglia soprattutto che nasce dal confronto e dall'incontro tra le diversità, perché stando in Erasmus, trascorrendo 6 mesi in qualsiasi località, a prescindere da Oviedo, io penso che sia valido un discorso che sia valido per tutte le località dove è possibile compiere questa esperienza, l'incontro appunto tra ragazzi coetanei che provengono da diverse parti d'Europa, stando insieme a loro, studiando, ci si accorge che è davvero un unico popolo, che le barriere sia linguistiche, culturali, nazionalistiche vengono abbattute, ci si sente cittadini di un unico territorio che è quello europeo, ma non solo, perché poi nella mia esperienza anche ho incontrato studenti provenienti da ogni parte del mondo, e il fatto di condividere queste stesse esperienze, le ore di studio, ma anche le ore di svago e di divertimento, ti porta a sentire parte del mondo e ad essere consapevole di una realtà dove non si è più solo italiani, ma si è cittadini prima dell'Europa e poi del mondo. Luigi, ma questi due mondi, cioè l'unione che tu hai vissuto nel tuo appartamento con i tuoi amici, nella tua esperienza, nella tua contaminazione, e l'Europa che tu descrivi anche nel tuo video, quindi quella della burocrazia, quindi quella di Bruxelles, quindi quella della BCE, sono due ambiti così inconciliabili? A mio parere no. È un discorso che è naturalmente molto ampio. Dal mio punto di vista, l'Europa può avvicinarsi ai cittadini, al popolo, essere meno distante, soprattutto presentarsi meno come un organo finanziario, burocratico, appunto citando Bruxelles, la Banca Centrale Europea e le altre istituzioni. Nel viaggio che ho compiuto insieme alla collega Francesca, vincitrice del concorso a Strasburgo, ho avuto modo, incontrando numerosi parlamentari europei, di scoprire numerose iniziative che coinvolgono direttamente i cittadini, non solo l'Erasmus, si è parlato anche di un Erasmus per gli artigiani o di altre proposte di scambio tra scuole, insomma ci sono varie iniziative che portano i ragazzi a concepire l'Unione da come un'integrazione. Esatto, come una opportunità. Tu studi scienze della comunicazione e c'è forse un problema di comunicazione in questa Europa? Sicuramente sì, quello di cui stavo parlando, appunto, forse l'Europa dovrebbe comunicare meglio qual è il suo obiettivo e soprattutto quali sono le sue fondamenta, perché è nata e perché, come hanno voluto anche i fondatori, è nata per unire i popoli e non soltanto per imporre dall'alto delle decisioni in varie materie. Luigi, grazie davvero. Ricordiamo che i video si possono vedere e apprezzare sul canale Europa del sito ansa.it. Ricordiamo ancora Erasmus, inviati ANSA per un giorno. Francesca Giglione di Casale Monferrato e Luigi Lupo, studente di Trani, sono i vincitori di questo concorso. Grazie, ciao Luigi, in bocca al lupo. Vi ricordo anche che, a proposito di Erasmus, proprio oggi pomeriggio al Festival di Internazionale alle 17.30 ci sarà Erasmus, una generazione in movimento, e avrò la possibilità di coordinare questo pomeriggio dove celebreremo i 29 anni dell'Erasmus. Ci prepareremo al grande compleanno del prossimo anno, con me Angelo Campione di Erasmus Student Network, poi ci sarà Ismaele Tortella, che è uno studente Erasmus che abbiamo conosciuto anche qui all'Altra Europa, perché ha vissuto 10 mesi in Argentina, Alma Fantine, una studentessa del Conservatorio di Bologna che ha terminato da poco il suo Erasmus in Belgio, Marco Rodolfo Di Tommaso dell'Università di Ferrara ed Elena Maddalena di Erasmus Plus Indire. Vi ricordo, oggi pomeriggio alle 17.30 a Ferrara, all'interno di Festival di Internazionale. Adesso ci fermiamo, un Europostit, il traffico, poi ancora qua con l'Altra Europa. Europostit. EU Prize for Women Innovators. Sei un'imprenditrice e sei alla guida di un'azienda molto originale e innovativa? La Commissione europea ha lanciato il Premio europeo per donne innovatrici 2017, dedicato alle imprenditrici più innovative. Da quest'anno nasce anche una nuova categoria per le giovani sotto i 35 anni, il premio per le innovatrici emergenti. Potranno partecipare le donne residenti in uno Stato membro dell'Unione Europea che siano fondatrici o cofondatrici di un'azienda che abbia registrato un fatturato di almeno 100.000 euro. Primo, secondo e terzo premio saranno rispettivamente di 100.000, 50.000 e 30.000 euro. Candidature entro il 3 novembre sul sito ec.europa.eu/research/innovation-union. JP Morgan Asset Management vi presenta L'Altra Europa. Sai che in Europa ci sono circa 2 milioni di posti di lavoro non occupati per mancanza di professionalità scientifiche e tecnologiche? 2 milioni più di 25 stati da calcio vuoti. E non sto parlando di lavori qualsiasi, si tratta di lavori stimolanti e spesso divertenti, in settori ad alto livello di innovazione che hanno bisogno di ricerca scientifica e tecnologica. Parliamo di gente che passa le giornate a cercare di capire come funziona il mondo e come fare per renderlo un posto migliore, trovando nuove cure per le malattie, esplorando i segreti dell'universo o creando robot iperintelligenti che si spera non cerchino di distruggerci. Ma chi le farà queste scoperte? L'Europa conta su di te. Infatti l'Unione Europea mette in atto investimenti ed attività per promuovere la formazione tecnico-scientifica e progetti all'avanguardia. Quindi che cosa stai aspettando? Come funziona il mondo? Come renderlo migliore? Soprattutto come trovare teste che possano occupare, quei 2 milioni di posti di lavoro in Europa? Questo era il cuore della campagna You Factor, campagna nata 6 mesi fa, promossa dalla rappresentanza in Italia della Commissione Europea e dall'ufficio in Italia del Parlamento Europeo, campagna che si è conclusa proprio ieri in occasione della notte dei ricercatori a Padova, campagna diversificata, campagna molto moderna, campagna che ha presentato anche innovative tecniche di comunicazione con un target che insomma sembra apparentemente lontano con le cose europee, che è quello degli adolescenti. Di tutto questo ne parliamo con quella che è stata di fatto l'ideatrice del progetto. Diamo il ben ritrovato qui all'Altra Europa Evelina Jelenkowska, responsabile relazioni media della Commissione Europea in Italia. Ciao Evelina, ben ritrovata. Ciao, grazie. Ti sei iscritta a qualche facoltà scientifica tu? Ah, vorrei, ma sono troppo vecchia ormai. Allora, abbiamo raccontato quello che voleva e doveva essere You Factor. Come sono stati questi 6 mesi? È stata una grandissima avventura, devo dire, anche per noi che teoricamente siamo l'istituzione, ma ovviamente eravamo un gruppo di persone dietro molto entusiaste. Abbiamo sperimentato questo nuovo modo di cercare di coinvolgere un target, come hai detto, che poi fra l'altro non è neanche tanto della Commissione Europea. Mm-hmm. Quindi è stata una sfida di scegliere i mezzi, era una campagna social media che ovviamente aveva anche una sua dimensione un po' più reale, con qualche evento che abbiamo organizzato per coinvolgere i ragazzi anche direttamente. Infatti un evento, eventi live, una piattaforma social, ricordiamo l'indirizzo youfactor.eu, e poi le storie, i testimoni, i protagonisti della scienza, che alla fine erano loro il grande anello di contatto tra il live, tra i social e soprattutto tra il pubblico degli adolescenti. Assolutamente, perché anziché raccontargli quanto sia bello e quanto, diciamo, quante opportunità offre l'Europa, che è tutto vero, abbiamo pensato che più coinvolgente e convincente è raccontare semplicemente le storie. Quindi ne abbiamo raccontati in 6 mesi centinaia, presentando le persone che hanno studiato scienza per caso, poi hanno finito a fare altre cose, presentando dei lavori che uno non conosce, che sono davvero divertenti, stimolanti. Non sei un topo di laboratorio, non sei un programmatore che spaventa, ma fai delle cose veramente all'avanguardia. Quindi cercavamo anche di farli divertire con vari concorsi, con vari contest, coinvolgerli, e penso che in grande parte siamo riusciti, perché c'erano tanti che si sono divertiti ai nostri contest. Abbiamo fatto per esempio un contest fotografico con un partner, Gifoni, dove li abbiamo premiati, e ci sono stati tantissimi che si sono presentati a questo contest, si sono divertiti. Abbiamo fatto un gioco Facebook, partiti un po' anche con un sondaggio fatto con scuola.net, quindi abbiamo anche scelto dei partner che ci hanno aiutato a approcciarsi a questo mondo un po' nuovo. Mm-hmm. E poi insomma anche scienza pratica, tante collaborazioni con le università, con le istituzioni, anche con il CNR, con il quale avete promosso Inve Factor. Sì, questo è un concorso che promuoviamo in realtà da qualche anno con CNR, solo che quest'anno era un po' particolare perché l'abbiamo potuto inserire in un più grande quadro, che era proprio la campagna, perché i messaggi dell'Infactor, quindi questo contest di innovazione, e la campagna erano veramente molto simili, quindi si prestava a farlo, e così abbiamo potuto sfruttare l'esperienza che avevamo già. In Factor anche tu genio, un concorso per le scuole, è stato chiesto alle ragazze e ai ragazzi di diventare inventori, oltre 80 candidature, ci sono state le premiazioni proprio la scorsa settimana, abbiamo il piacere di avere con noi alcuni dei protagonisti, diamo il benvenuto a Carlo Castelli dell'Istituto Tecnico Industriale Montani di Fermo, in provincia, siamo nelle Marche, vincitori del primo premio con l'invenzione chimica preziosa, oro dei rifiuti RAE, ciao Carlo. Ciao, salve. Ciao, e poi c'è Giada Licata dell'Istituto Tecnico Cannizzaro di Catania, vincitrice del secondo premio con l'invenzione isolanti naturali ecologici. Ciao Giada. Ciao. Carlo, ti senti un inventore? Insomma, ci abbiamo provato. Tra l'altro, chimica preziosa, ci avete trovato il modo per recuperare oro dai rifiuti tecnologici? Sì, insieme ai miei compagni all'interno dei nostri laboratori di chimica abbiamo ripreso quelle che erano le metodiche classiche, che comunque erano conosciute, visto che la tecnologia, ultimamente i rifiuti della tecnologia sono un problema molto importante nella nostra società, e c'erano già metodiche quindi che prevedevano appunto il recupero di metalli preziosi da questi rifiuti. Quella che riguardava l'oro prevedeva, diciamo, una prima fase in cui c'era l'ossidazione, sì. In cui c'è l'ossidazione di tutti i metalli tranne l'oro, quindi la separazione di tutti i metalli dall'oro con acido nitrico concentrato, che però è un acido concentrato molto dannoso sia per chi lavora sia che per l'ambiente, poiché produce fumi di ipozotite molto tossici. Noi quindi siamo riusciti in un primo momento, in seguito a 2 anni comunque di esperimenti, a sostituire il nostro, diciamo, reattivo innovativo, che compie la stessa funzione dell'acido nitrico, però non è dannoso né per chi lavora né per l'ambiente. Okay. Questo reattivo è il cloruro ferrico e ha lo stesso potere ossidante appunto dell'acido nitrico, ma non è assolutamente dannoso. Lui svolge la sua funzione, inoltre il suo potere ossidante è comunque aumentato dall'acido cloridrico, anch'esso diluito, quello che usiamo tutti i giorni per pulire i bagni per esempio, quindi assolutamente non dannoso. E diciamo che questo cloruro ferrico riesce benissimo quindi a svolgere la funzione dell'acido nitrico. In più, in seguito ad altri esperimenti, abbiamo notato anche che usando cloruro ferrico, che si compie la funzione dell'acido nitrico, però è comunque meno aggressivo, meno invadente, lui non va appunto ad attaccare, diciamo, la matrice da cui noi cerchiamo di staccare l'oro, che comunque si trova in soluzione con i reagenti, e quindi crea molte meno impurezze. E quindi ci basta una semplice filtrazione per avere un risultato abbastanza efficiente, diciamo, soddisfacente d'oro, senza passare per la purificazione, che nella metodica classica prevede l'utilizzo di acqua regia, che è l'unica appunto l'unica soluzione a riuscire ad ossidare anche l'oro, portarlo in soluzione, e poi è prevista una successiva riduzione con meta di solfido che riesce a farti riprecipitare l'oro comunque puro. Carlo, noi ci siamo persi, tu lo sai, vero? Ci siamo persi almeno 8 passaggi fa, però abbiamo capito che era una cosa complicata, e insomma avete avuto un'ottima intuizione. Giada, invece voi cosa avete realizzato? Beh, anche noi abbiamo optato per salvaguardare l'ambiente e allo stesso tempo, diciamo, sfruttare le risorse del nostro territorio. Infatti abbiamo estratto le fibre di ginestra agave ortica, che sono 3 specie di pianta che crescono abbondantemente sul bacino del Mediterraneo. Mm-hmm. Sono degli ottimi isolanti e possono essere usati quindi in edilizia, sono biodegradabili e quindi comunque provengono da materie prime facilmente reperibili e sono a basso impatto ambientale. Perfetto. Allora, diamo il sito che è cnr.it, da lì nella sezione In Factor potete trovare tutti i progetti, oppure eufactor.eu. Evelina, pensi che Carlo e Giada possano andare ad occupare alcuni di questi 2 milioni di posti oggi liberi in Europa? Sicuramente, secondo me sì. E da lì, tra l'altro, l'entusiasmo di entrambi è veramente contagioso, quindi... Insomma, questo... E questo era lo spirito di Eufactor. Ciao Carlo, ciao Giada, complimenti a voi e a tutti i compagni di classe, grazie. Anche i professori che vi hanno accompagnato. Ciao Evelina, alla prossima, grazie ancora. Ciao, grazie a te. Ciao. Noi ci fermiamo per la pubblicità, poi ancora qua con l'altra Europa. Europost-it. Bando europeo, noi siamo il futuro. Sei un aspirante regista o sceneggiatore europeo e hai tra i 18 e i 25 anni? Nell'ambito del progetto italo-spagnolo Fiesta al gusto del cinema italiano, è stato lanciato il bando europeo Noi siamo il futuro, un contest dedicato ai giovani talenti del cinema che risiedono in Europa. Il concorso invita sceneggiatori e registi a unirsi e presentare in coppia una sceneggiatura per un cortometraggio narrativo non documentaristico con durata compresa tra i 15 e i 60 minuti. I vincitori avranno diritto a un contributo economico di 25.000 euro, a un supporto nella post-produzione e a una società di produzione italiana e una spagnola che si occuperanno della realizzazione del cortometraggio. Il bando scade il 15 novembre. Potrete trovare tutte le istruzioni per l'iscrizione nella sezione Notizie del sito cinema.beniculturali.it. L'altra Europa. Ottobre, torna la giornata europea dei risvegli, la seconda edizione di questa manifestazione diventata europea di informazione su coma, stato vegetativo e gravi cerebrolesioni acquisite, quindi il modello italiano, diciamo, che viene esportato all'estero, ma soprattutto l'occasione di confronto, anche di pratiche, confronto di prospettive. È una giornata promossa dagli amici di Luca, lo sapete, l'associazione bolognese di cui è testimonial da tempo. Alessandro Bergonzoni, a cui diamo il benvenuto. Ciao Alessandro. Buongiorno e grazie di avermi chiamato. Allora, la Casa dei Risvegli, un'esperienza che è diventata europea. Qual è il valore, qual è il significato di questa giornata? La seconda giornata europea dei risvegli tra corpo e anima, il lavoro che noi facciamo sotto l'alto patrocinio del Parlamento europeo è un lavoro di coagulo tra l'obiettivo condiviso dai progetti europei Luca e Lucas, sì, che vede come partner Danimarca, Spagna, Belgio, Cipro, Lituania e Portogallo, dove porta proprio a svolgere azioni congiunte tra i paesi aderenti che promuovono seminari, convegni e azioni mirate su questo tema che è corpo e anima. Quindi siamo passati dall'ambito bolognese italiano all'ambito europeo. Questo allargamento non ci ha assolutamente impedito però un approfondimento. Quest'anno parleremo di corpo e di anima, quindi entreremo nell'ambito invece più intimo, più personale, più coscienziale dell'essere. Quindi questo allargamento per raccontare all'Europa che cosa la Casa dei Risvegli come modello sta facendo in questo momento per moltiplicare questa esperienza, ma poi portare con la giornata del 5 ottobre a Firenze, a Rimini, sì, una giornata di convegno scientifico, corpo e l'anima, all'espressività di un movimento attraverso esperienze realizzate nelle varie marginalità, dove appunto ci saranno personaggi come Roberto Piperno, nostro direttore di medicina riabilitativa, Carlo Ventura, professore ordinario di biologia molecolare, ho fatto solo due nomi, dopo la mia introduzione che parlerà appunto di arti, frequenze e altra dimensione animata, parlando del cantico dei quantici, proprio perché vorremmo parlare anche di cellule, vorremmo parlare di staminali, vorremmo che, come io dico spesso alle religioni, scambiatevi le fedi. Mi piacerebbe poter dire alle medicine, di cui tanto oggi si parla, di serie A, di serie B, medicine ufficiali e non ufficiali, scambiatevi gli studi, scambiatevi la ricerca. Queste nostre sono giornate di ricerca ulteriore e altra. La ricerca è quella anche spirituale, la ricerca è anche nell'ambito sportivo, le disabilità, soprattutto dopo il tema delle Olimpiadi, Paralimpiadi, certo, dove si vince e poi alla fine si torna a casa e le famiglie hanno sulle spalle il tema del sostentamento di questa disabilità, quindi la parte politica, la parte amministrativa, c'è un'anima nella parte politica, c'è un'anima nella parte amministrativa che possa capire questi temi, ecco il lavoro della Casa dei Risvegli quest'anno. Alessandro, ma che valore ha il silenzio e che valore ha il linguaggio, il capirsi? Quando... È una gran bella domanda fatta soprattutto a me. Il tema del silenzio, della coscienza, del tacere. Io in uno spot che sta girando per i cinema e per le televisioni parlo tre lingue, tra cui il tedesco, quindi anche il francese. Cercherò una lingua europea per trovare il silenzio nelle quali le persone si devono ritrovare, per pensare che chi tace non è assolutamente muto, che chi è fermo non è assolutamente immobile, che chi è lì bloccato non è assolutamente solo. E quindi c'è il linguaggio del corpo e il linguaggio dell'anima. È un lavoro artistico, permettimi di dire, è un lavoro artistico, non è poetico, non è solo lavoro sociale e civile. E quello che noi sottolineiamo insieme a Fulvio De Nigris e a Maria Vaccari è proprio questo, e tutto culminerà in uno spettacolo teatrale, Tu sì. È il mio respiro, fatto appunto dagli amici di Luca, dei ragazzi che sono usciti da questa storia, con la regia e testo di Mimmo Sorrentino, e lì ci sarà verrà data voce a queste persone che parleranno di un tema molto importante, sessualità, sesso e corpo. Quindi per raccontare i silenzi che ci sono stati fino ad ora su questi temi e su queste paure. E io voglio rivolgermi a quei familiari che non sono coinvolti, a quelle persone che dicono tanto a me non è capitato, quando mi capiterà mi interesserò. Ecco, questo è il lavoro che vogliamo fare. 7 ottobre, giornata europea dei risvegli, www.amicidiluca.it per tutte le informazioni e per conoscere nel dettaglio il programma. Grazie ad Alessandro Bergonzoni. Ciao Alessandro. Grazie dello spazio che ci avete dato. Grazie a te. Buona vita. The lights go on, the lights go off, when things don't feel right. But I'm like a tired dog, licking his wounds in the shade. Cultura, lo sapete, qui all'altra Europa, lo sottolineiamo spesso, è un qualcosa in cui crediamo molto, quel cemento, ma cemento vivo, cemento bello, cemento stimolante che può davvero fare la differenza in Europa. Mantova, capitale della cultura italiana, in questi giorni sta mettendo al centro quella che è l'innovazione culturale, lo fa attraverso Artlab, che è una piattaforma indipendente dedicata all'innovazione delle pratiche, delle politiche culturali, attraverso il dialogo, attraverso il confronto, attraverso il mettere in circolo le buone pratiche, da un'idea della Fondazione Fitzcarraldo. E all'interno di Artlab in questi giorni c'è stata tanta Europa. Ne parliamo con Ugo Bacchella, presidente della Fondazione Fitzcarraldo. Buon sabato, Bacchella. Buon sabato a lei e agli ascoltatori. La parola cultura e la parola Europa in questo periodo possono, o meglio, vanno a braccetto? Vanno a braccetto, molto al di sotto delle potenzialità che avrebbero per andare a braccetto. Diciamo che si accompagnano, ci vorrebbe un po' meno retorica e un po' più di progetti e pratica. 2018, anno europeo del patrimonio culturale, vedremo se sarà per la retorica o per la pratica, ma voi in questi giorni siete andati oltre alla retorica, mettendo al centro problematiche, criticità reali e anche quelle che sono invece potenzialità altrettanto reali. Quali sono secondo lei gli elementi più importanti che avete approfondito, che avete toccato? Quello che cerchiamo di fare in questo Art Lab è di mettere insieme i diversi soggetti che operano nell'ecosistema culturale creativo, sì. Quindi i produttori, i decisori, i finanziatori, pubblici e privati, allo scopo di fare tutti quanti qualche passo in avanti, perché di fronte alla complessità gigantesca dei problemi non della cultura, del mondo, pensare di affrontarli in modo settoriale e localistico è una follia, no? Certo. Non so dire se è più folle o più naif, però bisognerebbe cercare di partire, questo cerchiamo di incentivare, di partire dalle situazioni reali, cioè non è che ci neghiamo alla riflessione teorica alta, eccetera, ma cerchiamo di calarla nella realtà e di partire dalle esperienze. A noi certo ci piace parlare di successi, sì. Ci manca altro, ma ci piace molto di più parlare degli insuccessi, delle difficoltà, per superarle, non per lamentarsi, ma per individuare cosa non ha funzionato e provare a farlo funzionare meglio. Certo. Qual è secondo lei la prospettiva più interessante, quella che potrebbe essere veramente una prospettiva di cambiamento per un'Europa che crede, che investe e che sappia anche guadagnare dalla cultura? Quello di non considerare la cultura quella che gli inglesi amano chiamare l'ornament, cioè un orpello, verrebbe da dire, un qualche cosa che magari è bello, che ci concede un momento di felicità, di passione, di gioia, di tristezza e finisce lì. La cultura può fare molto, appunto, se la si vede in tutte le sue potenzialità a 360 gradi, in quello che può fare per migliorare la vita quotidiana delle persone. C'è tutto un filone che si sta facendo prepotentemente avanti, che è la cultura, la pratica artistica, andare a teatro, suonare, dipingere, eccetera, migliora la qualità di vita delle persone. Ormai ci sono grandi esperienze in questo. Non è così strano immaginare che se gli anziani, anziché stare isolati nel loro angolo a pensare al loro triste declino, dipingono, vanno a teatro, fanno pratica artistica con gli altri, stanno meglio, consumano meno antidepressivi, ad esempio, è dimostrato. Certo. Dopodiché la cultura può far crescere meglio le persone, stimolare la famosa creatività che tanto è rilevante per navigare nel mondo contemporaneo, può produrre importanti impatti economici, cioè la quantità, al di là della retorica, è indubbio che il peso della componente creativa aiutata dalle opportunità del digitale è cambiato enormemente, ma non solo nel produrre contenuti creativi e culturali di per sé per il mercato culturale, ma ad esempio per portare nelle aziende. Sono sempre di più le imprese che utilizzano creativi per ripensare i loro prodotti, i loro servizi, la loro organizzazione interna. In questo appunto ci vuole una dimensione più ampia europea. Insomma, una bella prospettiva, ne parleremo sicuramente ancora qui all'Altra Europa. artlab.fitzcarraldo.it. Grazie a Ugo Bacchella, presidente della Fondazione Fitzcarraldo. Buon sabato, Bacchella. Buon lavoro, grazie a voi. Adesso ci fermiamo, il traffico, poi ancora qua in diretta con l'Altra Europa. Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta L'altra Europa. We'll be right back. Sonorità inconfondibili, sono le sonorità dei Calibro 35 e con queste sonorità andiamo in Europa, proprio perché? Perché è appena partito il loro tour europeo, un tour composto da bene 18 date, il 29 hanno suonato a Barcellona, questa sera saranno a Parigi, invece ieri erano a Madrid e diamo il benvenuto qui all'Altra Europa a Massimo Martellotta, chitarrista dei Calibro 35, ciao Massimo! Ciao, ciao a tutti. Allora, come mai un palco grande quanto l'Europa? Cosa vi ha spinto a partire per questo lungo tour? Guarda, i Calibro da sempre, essendo musica strumentale, ci ha da sempre permesso di girare abbastanza in lungo e in largo senza farci troppo problemi sulla lingua, perché non essendo il cantato è come dire, tutto piuttosto immediato. E fu emblematico perché il primo concerto di sempre dei Calibro 35 avvenne in Lussemburgo, che è proprio, insomma, più Europa del Lussemburgo, come quantomeno geograficamente non c'è, no? Certo. E quindi, insomma, sì, siamo naturalmente portati un po' a esplorarla, e ormai è il quarto anno che giriamo stabilmente, pian piano sta crescendo un po' in tutte le parti, no? Iniziamo ad avere i fan che tornano, insomma, anche a scoprire dei posti nuovi fuori dalle capitali, perché ovviamente i primi giri si fanno nei posti un po' più grandi, no? Certo, e poi insomma ci si può anche allargare. E com'è questa Europa vista dagli occhi dei Calibro 35? Ma, guarda, allora noi appunto girando un po' tanto, abbastanza, e vivendo quantomeno il quartier generale, chiamiamolo così, dei Calibro è a Milano, devo dirti la verità che più giri e più noi Milano ci sentiamo, stare a Milano, lo diceva pure Dalla, ma è veramente già stare in Europa, non so, come dire, la sensazione che il continente è uno dei motivi per cui poi noi abbiamo un po' esportato il discorso Calibro fuori dall'Italia, era proprio perché in effetti ci si è resi conto che portarlo in giro in Europa non presentava alcun tipo di problema ed è stata una scelta molto, molto naturale, tanto quanto lo è girare in Italia. Quindi in questo ci sentiamo molto europei di fatto, non so come dire, sì. Perché è un tipo, fortunatamente il progetto si presta ad essere esportato facilmente, però c'è comunque da un po' di tempo a questa parte, anche per le vicissitudini che insomma, per il clima che sociale bene, eccetera, certo. che viviamo, di sentirci un po' europei a pieno titolo, ecco, molto, molto più che italiani in senso stretto. Questa sera suonerete a Parigi, come si vive l'esperienza di salire su un palco a Parigi, che insomma città simbolo e non solo, città sotto attacco, città anche artisticamente sotto attacco per i fatti che ben conosciamo? Noi ci siamo un po' passati in mezzo un po' ai vari episodi, perché quando, cioè, il fattaggio di novembre scorso non eravamo a Parigi, ma abbiamo suonato il giorno dopo a Roma in pieno centro con i militari fuori, no? Sì. E sicuramente una delle nostre scelte fu quella di continuare imperterritamente a fare quello che facciamo, perché riteniamo che una delle forze che abbiamo è quella di mantenere un po' lo status che hai, altrimenti cioè, come dire, un po' cedere al terrore, che insomma, al terrore quello... veramente, adesso uno non lo voleva dire, ma insomma è un po' così. E siamo tornati a Parigi poco dopo quello che era successo, e sicuramente devo dire che la sensazione è molto buona, perché il popolo parigino, senza voler generalizzare, ma quello un po' che abbiamo visto, è una forte coesione, una semplicità all'aggregarsi che forse a noi un po' manca, ma non per essere sterofilo, proprio per forse gli italiani sono un po' più rappresentati nell'unirsi per motivi pubblici, non so come dire, loro sono da sempre, ovviamente, certo. Anche culturalmente hanno, non so, la cosa che mi ha stupito molto, cioè stupito, che mi ha fatto molto piacere, è vedere una nuova normalità esibita con più forza di prima, non so come dire. Questo è una cosa, per i concerti forse c'è più gente di prima, adesso parlando del nostro piccolo, ma in generale abbiamo respirato una buona aria. Ovviamente poi c'è invece il lato B, che è invece molto più banale, e che ho trovato Parigi spesso a, la trovo molto simile a Roma per alcuni aspetti, perché invece poi c'è tutto il lato del lavoro che è un casino, che il traffico che non funziona e tutte queste altre cose più quotidiane, che però l'ho trovata, ecco, al di là della città bellissima che è, ed è un posto dove torniamo sempre molto volentieri, anche perché abbiamo delle affinità culturali altissime, grosse, perché il cinema francese e le musiche da cinema anche in Francia hanno forse più interesse che in Italia. E quindi insomma sì, c'è proprio una... E quindi c'è anche un'affinità di interesse. Assolutamente. Sempre un strapiacere sicuramente. Calibro35.net, questo è il sito, poi ci sono le pagine Facebook per conoscere l'intero tour. Massimo, ci salutiamo con Eurocrime Live, ce lo vuoi introdurre tu questo pezzo? Grazie, sì, è che è uscito da poco, in questi giorni, che è il motivo per cui siamo in giro, a portarlo in giro, il live dell'ultimo nostro disco, che si chiama Live from Space, perché l'ultimo disco era un po' ispirato alle library di sonorizzazione dei mondi spaziali e affini. Questo però, ecco, ci tenevo a passarlo perché è uno dei pezzi, forse uno dei più importanti dei Calibro, un pezzo che facciamo dall'inizio del tour, ma in questa versione un po' più, diciamo, rimaneggiata per l'occasione. Buon tour europeo, ciao, grazie. Grazie, ciao a te. Accompagnati dalle musiche dei Calibro 35 chiudiamo questa puntata dell'Altra Europa. Un grazie ad Alessandro Chiappini, oggi alla parte tecnica, Miriam Lucchetti e Silvia Righini, che con me hanno scritto la puntata. Radio24.it, come sempre, il nostro sito da dove poter scaricare il podcast e trovare tutti i contributi estero, oppure @ Federico Taddia se volete trovarmi sui social network. L'appuntamento, come sempre, è a sabato prossimo. Ancora grazie per essere stati con noi. L'Altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.